Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Per quanto riguarda invece il caso Gregoretti, io ho visto che c'è un grandissimo dibattito nella politica italiana, scatenato da Salvini, il quale dice: andrò a processo, scriverò le mie prigioni, non lo so. Credo che queste cose facciano anche un po' sorridere al resto del mondo. Salvini è passato dal sovranismo al vittimismo. E questo, tanto per iniziare la settimana, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è il ministro degli esteri Luigi Di Maio, nonché capo politico del Movimento 5 Stelle, a proposito dell'articolato caso Gregoretti, in cui è indagato l'ex ministro dell'interno Salvini, che ha visto oggi il voto della giunta per l'immunità del Senato, che ha votato a favore del processo per Salvini, quindi ha dato il via libera al processo contro Salvini. Poi ci sarà però il voto definitivo dell'Aula del Senato, ma in questa vicenda, oltre a varie questioni intricate, si sono anche invertite le parti, i ruoli di maggioranza e opposizione, perché la maggioranza ha disertato per non votare, l'opposizione con la Lega, non tutto il centrodestra, ha votato a favore del processo perché l'aveva chiesto in extremis Salvini. Insomma, poi cercheremo di chiarire un po' questa vicenda davvero molto molto intricata. E poi c'è un virus che spaventa, che viene dalla Cina. Sembrava che non ci fosse la possibilità di passarlo da essere umano a essere umano, invece degli esperti cinesi oggi hanno detto di sì, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità poco fa, in notizia di pochi istanti fa, ha deciso di convocare una riunione d'urgenza per il 22 gennaio per capire se effettivamente si tratta di un'emergenza internazionale oppure no, questo virus che assomiglia alla SARS. Parleremo dei furbetti del cartellino e del vigile mutande, ve lo ricordate, che beggiava con gli slip, è stato assolto. Perché il fatto non sussiste? Perché il fatto non sussiste? Lo capiremo poi naturalmente seguendo Effetto Notte, e poi molti altri argomenti, tra cui una nuova polemica che infiamma il Festival di Sanremo. Per i vostri commenti, avete visto che inizio settimana si parte subito a 200 all'ora, quindi allacciate le cinture. Se volete scrivere i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure SMS e WhatsApp ad inviare al 349-238-6666. Il caso della nave Gregoretti, sì, della giunta del Senato al processo a Salvini, la maggioranza diserta il voto. Libia, l'Unione Europea prepara la missione di pace, ancora gelo tra i due rivali, il premier libico Sarraj e il generale Haftar. Il virus misterioso in Cina, per gli esperti cinesi si può trasmettere da uomo a uomo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità convoca una riunione straordinaria per il 22 gennaio per verificare che non sia un'emergenza internazionale. I furbetti del cartellino del comune di Sanremo, assolto il vigile che timbrava in mutande. I tifosi investiti, l'accusa di omicidio volontario, è stata violenza tribale, accusa il procuratore. Roma seconda nel mondo per ore perse nel traffico, la capitale dietro solo a Bogotà, Milano è settima. Festival di Sanremo, nuova polemica, sempre per sessismo. Nella bufera il cantante trapper che in una canzone di 2 anni fa inneggiava al femminicidio, e Monica Bellucci da forfè. Partiamo quindi dal caso Gregoretti, via libera della giunta dell'immunità del Senato al processo a Matteo Salvini sull'ipotesi di accusa di sequestro di persona, appunto per il caso della nave della Marina Militare Gregoretti. La giunta ha respinto la proposta quindi del presidente Gasparri di negare la richiesta d'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro dell'Interno. Contro la proposta hanno votato i 5 senatori della Lega, a favore i 4 di Forza Italia, Alberto Balboni di Fratelli d'Italia. In caso di pareggio, comunque, il regolamento del Senato fa valere i no. Per il momento è stata votata comunque l'autorizzazione a procedere, poi entro 30 giorni deve votare proprio l'Aula del Senato. Comunque, come vi dicevo, la cosa particolare è che si sono invertiti in questo voto i ruoli di maggioranza e opposizione. Ne parleremo. Ora però le notizie economiche, partendo dal Fondo Monetario Internazionale e i dati diffusi a Davos. La crescita globale si attesterà al 3,3% quest'anno, tra cali delle performance in India, Stati Uniti e Cina. Lievissimo il miglioramento atteso nell'Eurozona, più 1,3%, e confermata una minima ripresa da più 0,2% a più 0,5% per l'Italia. Non siamo al punto di svolta, ha sottolineato la nuova direttrice del fondo, Cristalina Georgieva. Un punto di svolta intende semmai essere il forum di Davos di quest'anno, che si tinge di verde nel sancire l'acquisita consapevolezza, anche nel settore finanziario, della necessità di affrontare con molta più decisione i cambiamenti climatici. I giovani attivisti, capitanati da Greta Thunberg, chiedono molto molto di più ai VIP riuniti sulle nevi svizzere, ma a loro ha già risposto l'Agenzia Internazionale internazionale dell'energia, pur sottolineando che il settore oil and gas deve muoversi, ha escluso che possano essere interrotti gli investimenti negli attuali campi di estrazione petrolifera e di gas, altrimenti, ha detto, la produzione scenderebbe dell'8% annuo e il mondo andrebbe incontro a una vera e propria crisi energetica. Stefano Carrer, Radio 24, Sole 24 Ore, Davos. E a proposito di tutto questo, la disuguaglianza economica si sta allargando in tutto il mondo e le donne in particolare ne avvertono gli effetti perché il lavoro di cura rimane sottovalutato. Lo rivela il rapporto Time to Care, pubblicato oggi da Oxfam, che è la confederazione di organizzazioni no profit per la riduzione della povertà globale attraverso aiuti umanitari e progetti di sviluppo. Secondo questo rapporto, i 22 uomini più ricchi del mondo, uomini, possiedono maggiore ricchezza di tutte le donne presenti in Africa, 325 milioni di donne. Quando 22 uomini hanno più ricchezza di tutte le donne africane messe insieme, è chiaro che la nostra economia è semplicemente sessista, ha dichiarato Danny Shirikandaria, amministratore delegato di Oxfam in Gran Bretagna. Una terra delle disuguaglianze in cui un'elite, tra l'altro, di 2.153 paperoni mondiali è più ricca di 4,6 miliardi di persone e in cui la quota di ricchezza della metà più povera dell'umanità, circa 3,8 miliardi di persone, non sfiora nemmeno l'1%. Una situazione che tocca anche l'Italia, dove a metà 2019 la quota di ricchezza in possesso dell'1% più ricco superava la quota del 70% più povero. E siamo al dibattito sulle pensioni e il punto sul reddito di cittadinanza. I sindacati dicono no a uno scambio tra flessibilità dell'età pensionabile, oggi fissata a 67 anni, e ricalcolo dell'assegno in base ai contributi versati. CGIL e CISL e UIL bocciano la proposta lanciata dal presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, che apre la flessibilità in uscita dal lavoro legata però al ricalcolo contributivo della pensione, come avverrà per tutti dal 2036. Sarebbe un sistema molto penalizzante, dice il segretario della CGIL, Maurizio Landini. I sindacati immaginano un'uscita dal lavoro a 62 anni, ma senza svantaggi per i lavoratori. Lo scambio tra flessibilità e ricalcolo contributivo è impossibile, spiega il segretario confederale UIL Domenico Proietti. La flessibilità di accesso intorno a 62 anni rimetterebbe l'Italia nella media europea. Far pagare ai lavoratori questo fatto sarebbe un'ulteriore operazione di cassa alle spalle dei lavoratori e pensionati. Sul fronte pensioni e reddito di cittadinanza, l'INPS intanto aggiorna i numeri. Fino all'inizio di gennaio le domande accolte ammontano a 1.100.000. Le famiglie titolari di reddito sono 916.000, mentre quelle che incassano la pensione di cittadinanza raggiungono quota 126.000. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. All'estero adesso l'Unione Europea si muove per preparare una missione di pace in Libia sotto l'egida dell'ONU, ma il presidente turco Erdogan non ci sta ed è lontana quindi una pur minima convergenza tra i due uomini forti libici, Sarraj e Haftar. All'indomani della conferenza di Berlino, Fayez al-Sarraj preferisce non sbilanciarsi sul futuro del processo di pace in Libia. C'è solo un cauto ottimismo, dice il premier libico, che accusa il generale Haftar di non rispettare gli impegni, viste le sue ripetute violazioni del fragile cessate il fuoco negoziato dalle diplomazie. La crisi libica oggi è stata al centro della riunione dei ministri degli esteri europei. Entro febbraio l'alto rappresentante dell'Unione Europea Borrell dovrebbe presentare un piano per una missione europea in Libia sotto l'egida dell'ONU, ma anche una proposta per rilanciare l'operazione Sofia affossata dal precedente governo italiano dopo le polemiche con Bruxelles sulla questione migranti. Il ministro degli esteri Di Maio si dice a favore di una ripresa della missione, ma solo a determinate condizioni. Sofia va smontata e rimontata in maniera completamente diversa. Deve essere una missione per non fare entrare le armi in Libia, deve essere una missione per il monitoraggio dell'embargo e null'altro. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Parliamo di questo virus cinese, ha colpito finora circa 200 persone all'interno della Cina e 4 oltre confine. Il virus è simile alla SARS che si è diffuso a partire dalla città cinese di Wuhan. Confermato il primo caso in Corea del Sud, una donna di 35 anni che si trova in isolamento. Per gli esperti cinesi si può trasmettere da uomo a uomo. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, convoca una riunione straordinaria per il 22 gennaio per verificare che non ci sia una emergenza internazionale e ne parleremo con un esperto dell'Istituto Superiore di Sanità. nel corso di questa puntata. Di nuovo in Italia i furbetti del cartellino del comune di Sanremo. Il vigile in mutande che timbrava il cartellino e tornava a casa all'interno del comune di Sanremo, finito sotto inchiesta nell'indagine della Guardia di Finanza sui furbetti del cartellino, è stato assolto con rito abbreviato durante l'udienza preliminare perché il fatto non sussiste. Lo stesso procedimento si è chiuso con 10 assoluzioni, 16 rinvii a giudizio e altrettanti patteggiamenti. Tra le accuse quella di truffa ai danni dello Stato. Come mai è stato assolto il vigile mutande? Ce lo faremo spiegare nel corso di questa puntata. È accusato di omicidio volontario e lesioni aggravate il tifoso accusato di aver investito alcuni sostenitori avversari provocando la morte di una persona. Agguato, violenza tribale, pianificazione, si cercano le parole per definire la tragedia in Basilicata avvenuta ieri a Vaglio, nel Potentino, che ha provocato la morte di un tifoso investito da un'auto. Arrestate 25 persone, il conducente dell'auto Salvatore La Spagnoletta, il tifoso melfitano di 30 anni, accusato di omicidio volontario e lesioni aggravate per aver investito alcuni sostenitori della Vultur Rionero, e ucciso Fabio Tucciarello di 39 anni. Stamattina un vertice straordinario del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono stati intensificati al massimo i servizi di vigilanza e di controllo del territorio. Si valuteranno divieti per le trasferte delle due tifoserie. L'ipotesi è di un agguato, secondo il prefetto di Potenza, Annunziato Vardè. Non prevedibile, perché le due squadre non dovevano incontrarsi e disputare una partita ieri. Per questo il prefetto ha chiesto che le due squadre, Vultur Rionero e Melfi, valutino di ritirarle dal campionato, ma il presidente del Vultur Rionero ha già detto no, le società sono parte lesa. Intanto l'accusato dal carcere si difende e si dice distrutto. Sono stato circondato, ero terrorizzato e ho cercato di scappare. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi parleremo anche di una iniziativa della Lazio nei confronti dei tifosi che fecero il saluto romano durante una partita. Ne parleremo però a fine di questa puntata. Da domani poi sono stati revocati i divieti, e parliamo di inquinamento, i divieti e le limitazioni antismog di primo e di secondo livello nei comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli aderenti su base volontaria nelle province di Milano, Cremona, Pavia, Lodi e Mantova, dove per 2 giorni consecutivi i valori medi di PM10 sono stati al di sotto del limite previsto. A proposito di smog e di traffico, Roma e Milano sono nella top 10 delle città del mondo con più ore perse per ogni cittadino nel traffico. La capitale addirittura, Roma addirittura al secondo posto in questa classifica mondiale con 254 ore, preceduta solamente da Bogotà con 272. Il capoluogo lombardo, Milano, invece settimo con 226 ore, terzo posto per Dublino, davanti a Parigi e la russa Rostov-on-Don, e Londra con 227. Questo quanto emerge dal Global Card Scorecard di INRIX, analisi delle tendenze della mobilità e della congestione urbana in 200 città di 38 paesi. Parliamo anche di anoressia, perché su 3 milioni di malati di anoressia in Italia, uno ogni quattro donne, è un maschio. Se finora la malattia infatti è stata considerata solo femminile, i dati degli esperti aprono un nuovo scenario, ma spiegano anche che, essendo la patologia genericamente ritenuta da ragazze, i maschi ricevono diagnosi più tardive, oltre al fatto che temono lo stigma. Dell'argomento parlano gli endocrinologi dell'AME, che sottolineano come a sottovalutare il problema siano gli stessi medici a causa di un pregiudizio diagnostico di genere. L'età in cui si presenta la malattia, così come per le ragazze, è intorno ai 14-15 anni. Negli ultimi anni sono stati registrati casi anche a partire dai 9 anni. I ricercatori per anni hanno escluso gli uomini dagli studi e standardizzato i protocolli clinici e diagnostici solo sulla popolazione femminile, spiega Simonetta Marucci, endocrinologa esperta dei disturbi del comportamento alimentare. Per chiudere, Festival di Sanremo, nuova polemica sempre per sessismo. Nella bufera il cantante rapper Junior Kelly, che in una canzone di 2 anni fa inneggiava al femminicidio. Non è accettabile che nel corso di tale evento vengano diffusi messaggi inquadrabili come hate speech, scrive il presidente della commissione di vigilanza sulla RAI, Baracchini. Intanto Sanremo perde pezzi, c'è stato anche il forfè di Monica Bellucci. Torneremo a parlarne nel corso di questa puntata. Intanto diamo gli aggiornamenti per chi sta viaggiando e poi comincio con gli ospiti, i primi argomenti da affrontare. 349-238-6666 è il numero per SMS e WhatsApp, oppure i vostri messaggi li potete scrivere comodamente sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano, sempre con voi, 60 minuti come sempre, ricchi di aggiornamenti, di notizie in diretta, di sintesi della giornata, di approfondimenti con gli ospiti e anche dei vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure via SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Harry che invita a a portare come conduttore di Sanremo il vigile in mutande, dice tanto è del posto e non ne spara una al giorno come Amadeus. E poi vedo molti vostri commenti sulla questione del rapper o trapper. Qualcuno che dice così si fa fin troppa pubblicità, qualcun altro che dice è anche più colpevole chi lo ha invitato, mentre c'è per esempio Samuele che dice per me è un patetico tentativo per attrarre interesse con lo scopo di attirare un target di pubblico che di norma Sanremo non lo guarda. Poi mentre Silvia dice a questo punto cosa si può dire, sono tutti collusi e colluse anche le fanciulle che affiancheranno il conduttore, mentre qualcun altro dice se ha questo successo la musica trapper così violenta anche nei confronti delle donne in tutto il mondo bisogna chiedersi perché, insomma, purtroppo è un tipo di cultura molto diffusa, diciamo alla base praticamente della nostra società. Allora, adesso prima di tuffarci nella politica italiana con il caso del giorno, che in realtà è un caso che va avanti da mesi, vi ricordo puntualmente quali sono i fatti principali della giornata. Il caso della nave Gregoretti, la giunta per le immunità ha votato per l'autorizzazione del processo a Salvini, ne parleremo tra pochissimo. Libia, l'Unione Europea prepara la missione di pace, anche se c'è ancora gelo tra i due rivali, il premier libico riconosciuto dall'ONU Sarraj e il suo rivale generale Haftar. Il virus misterioso in Cina per gli esperti cinesi si può trasmettere da persona a persona e l'Organizzazione Mondiale della Sanità convoca una riunione straordinaria per il 22 gennaio, ne parleremo con un esperto. I furbetti del cartellino del comune di Sanremo, ha assolto il vigile che timbrava in mutande, i tifosi investiti, l'accusa è di omicidio volontario. E poi Roma è la seconda nel mondo per ore perse nel traffico, la capitale dietro solo Bogotà, Milano è settima, Festival di Sanremo con queste nuove polemiche. La votazione, quindi, essendosi conclusa in parità, ai sensi dell'articolo 107 del regolamento, così mi evito 20 telefonate stasera come regolamento, il regolamento dice, non sulla giunta, in assoluto, che in caso di parità le proposte si intendano respinte, non la mia proposta, le proposte, gli emendamenti, le leggi. E quindi in caso di parità la relazione non è approvata. La relazione non è approvata, cioè quella di Gasparri, presidente della giunta per le immunità, di non processare, di non autorizzare il processo a Salvini. Una questione veramente piuttosto intricata, concitata, arzigogolata questa del caso Gregoretti. La notizia principale di oggi è appunto che la giunta per l'immunità del Senato ha dato via libera a questo processo nei confronti di Matteo Salvini, accusato, indagato di sequestro di persona per, ricordate, la nave della Guardia Costiera Gregoretti, per l'appunto, con 131 migranti a bordo, che nel luglio scorso fu bloccata per alcuni giorni fuori dal porto di Augusta da Salvini, che non voleva far scendere i migranti. L'iter del voto su questa vicenda è stato veramente un otto volante e qui subito saluto la nostra Betta Fiorito in diretta dai Palazzi Romani. Cara Betta, buonasera radioascoltatori. Allora, faccio un breve riepilogo. Inizialmente Salvini riteneva folle questo fatto di essere indagato, perché diceva: io ho fatto l'interesse della mia nazione, ho difeso i confini della nostra nazione da migranti che potevano essere, per dire, ci potevano essere anche dei terroristi, potevano essere pericolosi. Di Maio subito però, in questo caso della nave Gregoretti, disse, al contrario di quanto avesse votato quando era nel governo giallo-verde sul caso della nave Diciotti, disse subito: il Movimento 5 Stelle voterà a favore del processo nei confronti di Salvini. Poi c'è stato il nodo della data. Allora, Salvini voleva a un certo punto che la giunta votasse per decidere se doveva essere processato o no per il 20 gennaio, quindi prima delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Calabria, elezione soprattutto quella in Emilia-Romagna cruciale, mentre l'opposizione diceva no, votiamo dopo quelle elezioni, tutte e due evidentemente in modo strumentale. Salvini voleva essere rappresentare l'agnello sacrificale con la maggioranza cattiva che lo faceva processare, la maggioranza a sua volta non voleva in qualche modo far vedere che votava per mandare a processo, quindi prima delle elezioni regionali mandare a processo Salvini. Poi c'è stato il voto casellati nei giorni scorsi, cioè la giunta per il regolamento del Senato doveva decidere questa benedetta data, se era il 20 oppure no. È stato deciso che era il 20 grazie al voto della Presidente del Senato Casellati di Forza Italia, e lì allora la maggioranza ha dato addosso dicendo che non era più super partes. Poi, colpo di scena, ieri praticamente, visto che oggi bisognava votare nella giunta per l'immunità, Salvini, che aveva sempre detto io ho fatto l'interesse della nazione, è follia processarmi, è una vergogna, eccetera eccetera, ha detto ai suoi basta, votate anche voi a favore dell'autorizzazione per il processo nei miei confronti, no? Ergendosi, dice l'opposizione, dice la maggioranza, a eroe, a vittima, mentre Di Maio dice proprio è passato dal sovranismo al vittimismo. Anzi, farei sentire proprio Di Maio nella sua considerazione oggi che cosa ha detto. Per quanto riguarda invece il caso Gregoretti, io ho visto che c'è un grandissimo dibattito nella politica italiana, scatenato da Salvini, il quale dice andrò a processo, scriverò le mie prigioni, non lo so, credo che queste cose facciano anche un po' sorridere al resto del mondo. Salvini è passato dal sovranismo al vittimismo, è la sua nuova linea politica, e sono tattiche, niente di più. Siccome non poteva controllare il processo nella giunta delle autorizzazioni e quindi avrebbe perso, perché sa che è stata una sua scelta di propaganda bloccare quella nave, non è mai stata coordinata dal governo, allora ha deciso di ribaltare e dire mi faccio processare. Secondo me in questo momento il nostro obiettivo deve essere quello di lavorare e far lavorare il Parlamento per i cittadini italiani. La magistratura si occuperà del caso Gregoretti. Ma le articolazioni di questa vicenda non finiscono qui, perché oggi c'è stata in giunta anche un'inversione dei ruoli da parte di maggioranza e opposizione, cioè la maggioranza, come aveva annunciato i giorni scorsi, per protestare contro il voto della Casellati ha deciso di disertare la giunta, quindi di non esserci, di non votare. Sapeva che avrebbe, pensava che avrebbe vinto l'opposizione votando contro il processo a Salvini, dicendo così non siamo noi che lo mandiamo a processo, però le cose sono andate diversamente, perché appunto Salvini aveva detto mandato alla Lega di votare per farlo processare. Betta, aiutaci tu. Allora, diciamo che c'è tutto quanto, tutto questo non importa. No. Diciamo ai radioascoltatori qual è il conquibus. Dice tutto il conquibus. Quello che importa è l'ultima settimana di campagna elettorale per le regionali, non tanto in Calabria quanto in Emilia Romagna. Noi abbiamo il novello Silvio Pellico al secolo Matteo Salvini. Ha detto che scriverà le sue prigioni, poi lo facciamo sentire. E certo, oltretutto, hai capito? Lo vogliamo far sentire? Ce l'abbiamo per caso? Sì. Vediamo. Ma comunque dal carcere dello Spielberg e Matteo Salvini. Carcere dello Spielberg e Matteo Salvini, via. Lo mandiamo tra poco, perché non l'avevo messo in scaletta, mi ero dimenticata. Allora, colpa mia. Dal carcere dello Spielberg, che lui poi è milanese, quindi capito questa San Vittore, cosa, Lombardo Veneto, capito? Silvio Pellico, le cinque giornate, cioè potrebbe fare qualsiasi cosa, cioè in questo momento è in corso una serie TV, hai capito? In cui lui è la vittima, allora, è Silvio Pellico. E allora sentiamo Silvio Pellico. E la maggioranza è praticamente Radeschi. Radeschi, sentiamo. Non mollare, ma sei matta, mi devono arrestare per farmi... Vabbè che non manca molto, però... Ma non mollo neanche da dentro, scriverò le mie prigioni come Silvio Pellico, faccio un nuovo format televisivo. Ecco, qui diciamo, non ci si annoia mai, lo diciamo sempre con la politica italiana, potrebbe esserci questo nuovo format, Betta, che dici, una possibilità? Televisivo. Sì. Certo, televisivo. Lui dal carcere invece di Spielberg al carcere San Vittore... il novello Silvio Pellico al secolo Matteo Salvini, nato lombardo, cioè lui lotta per la libertà. Senti. Quindi lui ha detto questa cosa, ha detto questa cosa fondamentale, importantissima, ha detto che lui potrebbe andare in prigione per la libertà. Per la libertà, però c'è... Ora, per la libertà, sì. Che ha negato a 131 migranti perché non li ha fatti sbarcare per 3 giorni. Vabbè, ma tutto questo è una grandissima serie TV che secondo me potrebbe comprare Netflix, Amazon Prime, Team Vision, tutti, la Rai, tutta, in cui lui scriverà le mie prigioni. Questo io lo il trovo fatto che però il penso, problema è penso, che la Betta, maggioranza ci casca, ci su questa cosa ci casca. E quindi ha fatto Salvini martire oggi, e santo subito domani. Domani santo subito, ci pensiamo domani. Senti, però, detto tra noi, allora, intanto entro 30 giorni da questo voto della giunta per l'immunità deve votare proprio l'aula del Senato. Probabilmente sarà confermata questa decisione, questo risultato, però penso che ci siano ben poche possibilità. Poi io non sono una giurista, che Salvini sia mandato in galera, no? A scrivere le sue prigioni. Betta, tu che dici? Diciamo che intanto questo voto della giunta aveva semplicemente una valenza politica, perché cadeva la settimana prima del voto in Emilia Romagna, quindi la maggioranza voleva allungare il brodo e dire: non vogliamo che lui usi strumentalmente la giustizia. Appunto, già lui poi è un grande su queste cose, no? Silvio Pellico domani canterà la marcia di Radeschi per dire che lui, cioè, e quindi non strumentalizzasse questo voto. Il voto vero ci sarà il 17 febbraio nell'aula di Palazzo Madama. Questo voto però sarà un voto molto chiaro, cioè l'autorizzazione a procedere, perché lui è indagato per sequestro di persona. Questo sequestro di persona assolutamente, secondo me, verrà assolto, quindi è tutto una bolla di sapone mediatica che Salvini, da grande affabulatore, sa usare per il suo elettorato, e quindi dice: mandatemi a processo, no? Adesso, cioè, sembrava veramente l'inquisizione, no? Che lo mandasse a processo. Allora, la maggioranza si è sfilata, ha deciso di non fare l'inquisizione, di non fare, oppure il Lombardo-Veneto, il governo austro. Qui siamo sui libri di storia, Retroso, andiamo. Eccetera, e ha detto: noi abbandoniamo la giunta. Questo voto in parità di fatto ha dato la vittoria della Lega, e lui potrà dire che è perseguitato a livello politico, eccetera, e fare la sua campagna elettorale in Emilia Romagna. Però tutto questo è un po' finto. Il problema, secondo me, della maggioranza, e questo io lo dico con molta chiarezza, è che Salvini va nei territori. Cioè, lui è andato a Riace, è andato a fare i comizi, è andato a fare a destra, a Manca, ha battuto passo a passo l'Emilia Romagna, mangiando prosciutti, formaggi, ravioli, cioè, prosciutti, mortadella, ravioli, tortellini, tutto, no? Va a Riace, si mangia l'induja, cioè lui fa questa cosa. Mentre il PD che cosa fa, Roberta? Se ne sta in conclave. Va a Rieti. In conclave, a Rieti, vocazione dove non mistica. Si vota. In conclave, e dice: adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo guardare a sinistra? O dobbiamo guardare al centro? Dove dobbiamo guardare? Dove invece di guardare? No, è che non stanno sul territorio. O dobbiamo stare sul territorio? Ecco, il PD deve capire che Salvini sul territorio ci va. Sono loro che non ci vanno. Questa è la forza di Salvini. Se non ci si rende conto di questo, si possono fare Gregoretti, Gregoracci, come ti pare a te. La Gregoracci, che già è scontenta di Sanremo. Senti, visto che hai citato la Gregoracci, Solgenitsin, non ci va in prigione, capito? Betta, però c'è la polemica politica anche, a parte il caso Gregoretti, su Sanremo, come tu saprai, no? Quello scivolone che ha fatto nei giorni scorsi il conduttore e direttore artistico della prossima edizione, che inizia a febbraio, Amadeus, che aveva detto, a proposito della compagna di Valentino Rossi, è a parte bellissima, si può dire tranquillamente, una è bella, eccetera, che però sa stare accanto a un grande uomo, ma sempre un passo indietro, perché questo evidentemente dovrebbe essere il ruolo delle donne. Allora, oggi è intervenuta anche Michelle Hunziker su questo, ma soprattutto è nata una nuova polemica, sembrava che quella piano piano sfumasse, mentre adesso c'è questo, chiamiamolo cantante, Junior Kelly, che è un rapper, trapper, quelli che fanno quelle musiche, no? Molto molto ritmate, molto incavolate, e soprattutto sempre nei confronti delle donne, che sono poi i migliori capri espiatori, naturalmente, no? Per ometti di questo tipo, e fra le varie canzoni degli anni scorsi questa per esempio si chiama Strega. Vogliamo sentire questo passaggio che è incriminato perché sono intervenute oggi il presidente della vigilanza della RAI dicendo inaccettabile che possano andare a Sanremo persone che seminano che incitano all'odio, e sono intervenuti anche praticamente tutti i partiti politici, dal PD all'EU a Forza Italia al Movimento 5 Stelle. Adesso anzi vado a riprendere alcune dichiarazioni, Betta, vediamo se le ritrovo. Per esempio c'è stato Gelmini di Forza Italia che ha detto: un linguaggio violento, sessista, offensivo che non merita una vetrina prestigiosa come il Teatro Ariston. La RAI e Amadeus prendano immediati provvedimenti. Incitare all'odio e alla violenza nelle proprie canzoni non è talento né libertà artistica, ma solo ottusa strumentale idiozia. Anche Sandra Savino di Forza Italia le fa eco, dice: se ciò non avverrà, se non lo escluderanno, bisognerebbe lanciare uno sciopero del pagamento del canone. Zingaretti, segretario del PD: Sanremo ha avuto grandi interpreti a rappresentare il talento, la competenza e l'autorevolezza delle donne, dice: quest'anno si trasmette un brutto messaggio che offende le donne, tutti siamo chiamati in causa. Il deputato Luca Pastorino di Liberi Uguali dice: solo pensare alla partecipazione di Junior Kelly al Festival di Sanremo è stato un grave errore, ora bisogna correre ai ripari ed escluderlo. Buffagni del Movimento 5 Stelle risponde a Salvini. Cosa aveva detto Salvini ieri su Twitter? Ha detto: a proposito, mi vergogno di quel cantante che paragona donne come troie, violentate, sequestrate, stuprate e usate come oggetti. Dice Salvini: lo fai a casa tua, non in diretta sulla RAI a nome della musica italiana. Lo fai a casa tua, dice Salvini. Allora Buffagni dice: quindi insultare, sequestrare, violentare, stuprare e usare le donne come oggetti per te va bene, ma basta farlo con discrezione dentro casa. Vergogna, le donne vanno rispettate e amate sempre. Quindi grande polemica politica. Sentiamo questo passaggio di questa canzone di questo cantante. Si chiama gioia, ma beve e poi ingoia, balla mezza nuda dopo te la dà. Si chiama gioia perché fa la troia, si per la gioia di mamma e papà. Questa frate non sa cosa dice, porca troia quanto cazzo chiacchiera. L'ho ammazzata, gli ho strappato la borsa, ci ho rivestito la maschera. Ecco, l'ho ammazzata, l'ho strappato la borsa, ci ho rivestito la maschera, perché questo cantante ha una maschera e secondo me forse perché si vergogna e fa molto bene a farlo. Cosa dici, Betta, in chiusura? Allora, intanto io sto vedendo una serie TV che è tratta da un romanzo molto importante che si chiama Il racconto dell'ancella, mm-hmm, dove le donne vengono schiavizzate e dove c'è questo mondo distopico. Per i radioascoltatori vuol dire un'utopia al rovescio, sì, quindi un incubo, eccetera. Io penso che bisogna agire. Amadeus, in un paese normale, non sarebbe oggi in grado di presentare il Festival di Sanremo perché gli sarebbe stato tolto. Questa persona che sta facendo questa canzone sta commettendo un reato, va preso. Intanto devono essere bandite tutte queste canzoni orrende e va messo in prigione. In prigione ci deve passare un'equa pena, un anno, così se la pianta di stigare contro, sulla violenza contro le donne. Come se già insomma queste fosse abbastanza diffusa, diciamo. Vanno arrestate. Questa persona va presa, va manettata, va messa in carcere dopo un processo equo per almeno un anno. E le sue canzoni vanno bannate. Quantomeno questo, Betta, al di là del resto. La prossima volta che osa parlare così di una donna, vedrai che non lo farà più. Betta, poi ci si mette Enzo Mazza, che è l'amministratore delegato della Federazione dell'Industria Musicale, che dice: ma questa è creatività artistica, è evidente che si debba procedere con la massima cautela. Il rap e più in generale la musica urban è costituita da forme di linguaggio spesso molto crude e dirette. È un genere musicale che proprio per questo negli Stati Uniti, in Europa e in Italia ha goduto di un crescente successo tra le nuove generazioni. Quindi dice che è solo un linguaggio crudo e diretto, e che insomma comunque è creatività, e se Sanremo dice vuole rappresentare al meglio la musica italiana deve farsi carico anche di proporre questo genere musicale. No. Io direi, Betta, di chiudere, è chiaro. No, quello che, allora, che questa è violenza sulle donne e anche questo va arrestato. No, vabbè, adesso se non va arrestato, per le cavolate che ha detto, deve pagare una multa. Ecco, una multa, così delle sanzioni. Vediamo la creatività maschilista, chiaro, che questa persona vuole incitare. Carissimo. Queste persone persone vanno sanzionate. Sanzionate, su questo siamo d'accordo. Quantomeno non partecipare a un palcoscenico così importante e mediatico come Sanremo. Grazie Betta Fiorito, ti lascio tranquilla, mi raccomando, ci sentiamo domani, dopodomani con più calma. Grazie Betta, ciao, buona serata. Va bene, ci prendiamo una pausa di riflessione, di respiro. Voi continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, con voi Roberta Giordano per ascoltare questa imprescindibile colonna sonora della sera, questa sfida in cui cerco di raccontarvi a fine giornata quello che di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero, in modo che un giorno non potrete dire io questa non la sapevo a proposito di una notizia importante. Abbiamo parlato della politica italiana, del caso del giorno, il caso Gregoretti, con l'autorizzazione della Giunta per l'immunità a procedere nei confronti di Matteo Salvini in veste di ex ministro dell'interno, appunto per il caso della nave della Guardia Costiera Gregoretti. Poi ci sarà a febbraio, entro 30 giorni, insomma, ci deve essere il voto da parte proprio dell'Aula del Senato. Per i vostri messaggi continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666. Vedo molta vivacità sul caso che abbiamo citato poco fa a proposito dell'ultima polemica che riguarda Sanremo. Adesso però sempre su Sanremo restiamo, ma sul comune di Sanremo. Tu vecchia mutanda, tu, con l'elastichino blu. Vi ricordate, a proposito di mutande, il caso del vigile urbano del comune di Sanremo, che era diventato un po' il simbolo dei furbetti del cartellino? I furbetti del cartellino sono dipendenti pubblici che vanno a timbrare il cartellino, il badge, oppure se lo fanno timbrare da qualche altro collega, però poi vanno a fare altre cose. Naturalmente sono una minoranza nella pubblica amministrazione, insomma qualche volta se ne è parlato, vanno magari a fare la spesa, a fare shopping, o magari vanno a fare canottaggio, vanno a fare una gita. Bene, questo vigile era stato immortalato mentre timbrava il cartellino in mutande e poi se ne tornava a casa. Oggi è arrivata la sentenza per il caso del comune di Sanremo, con vari dipendenti che avevano utilizzato, diciamo, questo escamotage. Il più emblematico naturalmente era risultato il vigile. Che cosa è successo? Che questo vigile Alberto Muraglia, finito sotto questa inchiesta nell'indagine della Guardia di Finanza sui furbetti del cartellino, è stato assolto con rito abbreviato durante l'udienza preliminare. Perché? Perché il fatto non sussiste. Allora, lo stesso procedimento si è chiuso poi con 10 assoluzioni, 16 rinvii a giudizio e altrettanti patteggiamenti con pene da 10 a 19 mesi per altri dipendenti pubblici. Tra le accuse, quella di truffa ai danni dello Stato. E allora c'è da chiedersi come mai il fatto non sussiste, se questa immagine aveva fatto veramente il giro del mondo col vigile in mutande. Lo voglio chiedere a Giulio Gavino, che è giornalista di cronaca giudiziaria del giornale La Stampa. Giulio, buonasera. Buonasera a te e buonasera a tutti gli ascoltatori. E grazie della disponibilità. Ci spieghi allora come sono andate le cose? Per tutti sembrava evidente che, insomma, era una situazione un po' particolare questo vigile, invece non è così, il fatto non sussiste. Sì, diciamo che sì, potremmo dire il pronunciamento clamoroso per il battage mediatico legato a questo caso scoppiato nell'ottobre del 2015, quando erano scattati arresti e in totale circa 50 misure cautelari. Beh, dobbiamo dire innanzitutto che l'udienza con il rito abbreviato è venuta a porte chiuse, quindi è trapelato molto poco fino a questo momento sia delle strategie, soprattutto direi delle strategie difensive. Abbiamo sentito da cronisti gli avvocati difensori proprio pochi istanti dopo la lettura della sentenza. L'impressione è che quelli che sono stati raccolti dalla Guardia di Finanza prima e dalla Procura dopo siano stati considerati degli indizi e non delle prove. È vero, c'erano le telecamere, c'erano delle mutande in primo piano. C'erano delle mutande in primo piano, in particolare erano 4 gli episodi che erano contestati a questo agente di polizia municipale. Lui, episodio per episodio, ha ricostruito cos'era accaduto quel giorno, il motivo per cui era vestito, o svestito, se vogliamo meglio, in quel modo, e e quindi ha dimostrato che di aver vibrato addirittura in pare in un caso addirittura in anticipo, perché era in déshabillé, perché timbrava presso gli uffici del mercato dell'ortofrutta di Sanremo, lui era anche custode, quindi viveva con la famiglia all'interno di questa struttura, e nel momento in cui si svegliava alle 4:30-5 del mattino per prendere servizio, passava davanti al badge e timbrava un po' come era messo, impropriamente sicuramente, a quell'ora del mattino non c'era nessuno che circolava e quindi timbrava in quel modo. Quindi è mancata una correlazione probatoria tra un comportamento che poi ha portato tra l'altro anche al licenziamento dell'agente di polizia municipale e però la prova della truffa che evidentemente il giudice non ha ritenuto, e per questo ha assolto lui ed altri imputati. Lui nel frattempo, so che appunto è stato licenziato, dicevi tu, dal Comune di Sanremo, ha aperto un negozio in cui ripara piccoli elettrodomestici, quindi adesso potrebbe essere in realtà diciamo reinserito come dipendente del Comune, adesso dipende, diciamo, se è il suo interesse stato, o meno. Ecco, subito dopo l'inchiesta per tutti i dipendenti comunali coinvolti in questo caso c'è stato un procedimento disciplinare che si è concluso nella maggior parte dei casi con licenziamenti e poi con dei provvedimenti disciplinari, sospensioni dal lavoro, eccetera. Il vigile in questione aveva presentato ricorso, il primo ricorso è stato respinto dal giudice del lavoro, è pendente il secondo ricorso. Va detto che non esiste una correlazione stretta tra quello che è il pronunciamento del giudice penale e la procedura amministrativa. Certo, ci saranno ancora delle battaglie legali in proposito, ma sarà tutto da vedere. Sicuramente la soluzione non ha portato a configurare un reato penale, non porta all'immediato reintegro, anche perché comunque il comportamento e il rapporto fiduciario che c'è tra la pubblica amministrazione e i suoi dipendenti può essere venuto a meno. Chiaro. Va bene, poi c'è il suo avvocato che ha fatto un paragone col cosiddetto tempo tuta, per esempio degli operai della Fiat, e dice che di molte fabbriche arrivano e il tempo comincia a decorrere da quando entrano nel luogo di lavoro, vanno negli spogliatoi, indossano la tuta, la divisa, eccetera eccetera. Comunque insomma, per il momento il caso si chiude qui. Grazie Giulio Gaviro della Stampa e buon lavoro, Giulio. Grazie a te e a tutti, buona serata. Grazie, ciao. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi, c'è chi scrive a favore di quello che diceva Betta Fiorito a proposito del cantante trapper che insomma incitava al femminicidio in una sua canzone di 2 anni fa e che sarà presente a Sanremo, chi invece l'attacca al di là delle manette, insomma è stata una provocazione, esagerazione di Betta Fiorito, però ovviamente in un paese come il nostro, che è pure un paese civile ma che ogni 2 o 3 giorni c'è un femminicidio, diciamo che forse presentare un personaggio di questo tipo sul palcoscenico di Sanremo così mediatico non è la cosa più adatta, e quantomeno effettivamente chi nei testi che poi pubblica e fa sentire a tanti giovani mette queste parole, questa istigazione alla violenza, qualche sanzione probabilmente mi pare più che consona. Tra l'altro questo che doveva essere, almeno nel concetto che aveva espresso inizialmente Amadeus, il Sanremo delle donne, contro la violenza delle donne eccetera, si sta invece rivelando insomma diciamo con molte cadute di stile, e non solo, perché istigare alla violenza non è una caduta di stile, no, è ben altro. Adesso però parliamo di questo virus che c'è in Cina, una specie di SARS, e sembrava che non fosse trasmissibile direttamente da persona a persona, però esperti cinesi in giornata hanno detto è così, invece effettivamente si può trasmettere, e tra l'altro l'Organizzazione Mondiale della Sanità in serata ha deciso di convocare per il 22 gennaio una riunione straordinaria per decidere se si tratta di un'emergenza di salute internazionale oppure no. Voglio chiedere lumi al professor Gianni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Professor Rezza, buonasera. Buonasera a voi. E bisogna preoccuparsi effettivamente per questa specie di SARS, come lo vogliamo definire, questo misterioso virus che appunto viene dalla Cina? Ma dobbiamo capire meglio. Era chiaro ormai da qualche giorno che c'è trasmissione da persona a persona. Perché? Perché erano arrivati dei pazienti da sempre Wuhan City, che è questa città di 11 milioni di abitanti, una città molto grande della Cina, erano arrivati in Giappone, in Corea, in Thailandia, 4-5 pazienti affetti da questo coronavirus, e non avevano visitato questi famosi mercati di animali vivi. Quindi evidentemente avevano contratto l'infezione da qualche altra persona che aveva la polmonite. Allora, questo che cambia? Beh, cambia il fatto che chiaramente se c'è trasmissione interumana, quindi da persona a persona, il focolaio più facilmente può allargarsi, mentre se la trasmissione è solo da un serbatoio animale, in genere resta lì. Mm. Adesso però quanto sia trasmissibile, quanto facilmente sia trasmissibile il virus, non è ancora noto. In genere questi coronavirus si trasmettono solo per contatto diretto, contatto stretto, ravvicinato, come avviene per esempio all'interno di un nucleo familiare, come avviene tra un operatore sanitario che non prenda precauzioni e un paziente, ecco. Quindi la velocità di diffusione in genere è piuttosto lenta, si può intervenire, se si interviene tempestivamente si può mettere sotto controllo, come fu anche per la SARS, che sembrava anche più aggressiva. Mm. Professoressa, mi dica solo, ma è pericolosa, è mortale oppure basta tenerla sotto controllo? Beh, per quanto riguarda la virulenza, quindi l'aggressività clinica, ancora non abbiamo dati precisi perché... praticamente sarò identificato l'altra settimana il virus, quindi questi pazienti hanno un follow up ancora abbastanza breve. Abbiamo avuto 2-3 decessi, si sono verificati, si trattava di persone che erano già molto, diciamo, malandate, già prima di contrarre questa infezione. Sembra essere clinicamente meno aggressivo della SARS, la maggior parte dei casi sono delle polmoniti, polmoniti anche relativamente lievi, con febbre alta, tosse, qualcuno ha una difficoltà respiratoria. Certo, prima bisogna essere cauti, ecco, prima di dare un giudizio definitivo bisogna aspettare ancora qualche giorno. Chiaro, professor Gianni Rezza, vediamo anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità che cosa dirà il 22 gennaio. Intanto grazie e buon lavoro, professor Gianni Rezza. Grazie a voi, arrivederci. Grazie. Ora invece il Dario Ricci, nostro, è venuto a trovarmi, diciamo, qui in studio. Malato di febbre del gol. Febbre momento, del gol, come va lì la partita che c'è in corso Atalanta-Spal? Atalanta-Spal, siamo al 50° di gioco, è 1-0 per l'Atalanta, splendido il gol di Ilicic al 15°, c'è stata la volata sulla sinistra di Zapata, il cross al centro e il colpo di tacco dell'attaccante sloveno a siglare l'1-0, poi per l'Atalanta anche il palo dello stesso Zapata, nel finale del primo tempo palo anche per la Spal, colpito dall'ex Petagna, caro Alberto. Invece Dario, c'è un'iniziativa particolare della Lazio, no? Nei confronti di tifosi che hanno fatto il saluto romano in una partita di qualche tempo fa, sì, no? Lazio-Ren. Sì. Lazio-Ren dell'ottobre scorso in Europa League, l'aveva detto il presidente Lotito, i responsabili pagheranno, ma come spesso capita nessuno si immaginava fosse da intendere proprio così alla lettera, concreto, insomma, sì. La frase. Sì, perché che cosa accadde durante Lazio-Ren? Un gruppo di tifosi nella curva nord fece il saluto romano, gesto che entrò nelle mire giustamente dell'UEFA e portò alla chiusura della stessa curva nord per la gara successiva del girone di Europa League, la gara casalinga contro il Celtic Glasgow. Ebbene, la Lazio ha quantificato quel danno in 50.000 euro e individuati, grazie ai video dell'UEFA e alle indagini delle autorità competenti, i responsabili del presunti tali di quei gesti, ha scritto loro una letterina dicendo: bene, il danno è di 50.000 euro, lei ha violato il codice etico che sottoscrive di fatto acquistando il biglietto, quindi contatti la società per definire le modalità del risarcimento. E in più a questi tifosi, o chiamiamoli così per brevità, è stato anche sospeso l'abbonamento per 3 partite. Quindi fatto notevole, sì, notevole, un inedito finora, Dario. Sì, direi cosa... a memoria nel nostro calcio è un inedito, si era parlato, perché il codice etico per le società è entrato di fatto in vigore nel 2017, ma vale per tutti i tesserati, ma anche per i contraenti di quel contratto che è il biglietto. Perché... Però Dario, uno si chiederà, ma questi chiedono 50.000 a testa, se non sbaglio, questi... Sì, se abbiamo capito bene, sì, perché in realtà è abbastanza incerta questa cosa. Però comunque... Sarà possibile davvero costringere a pagare? Cioè, ci sono allora, di fatto la società ha agito nel pieno delle proprie facoltà e quindi delle proprie possibilità, dei propri diritti. ai tifosi chiamati in causa sono dati 10 giorni per ricorrere in appello e nel caso fossero riconosciuti appunto responsabili e chiamati a pagare questa somma, farà fede il fatto che ne siano nelle effettive facoltà. Però di fatto la società ha operato secondo diritto. Secondo i propri diritti, poi bisognerà vedere quanto riesca ad andare fino in fondo. Però che comunque il segnale è molto positivo, no? Molto forte. Forse quella è una di quelle chiavi che può funzionare. Cioè, bel precedente. Ti metto le mani in saccoccia, vediamo se allora forse passa, diciamo che convince più che in altri modi. Ecco. Grazie Dario Ricci. Grazie a te. Ciao caro Dario, noi ci aggiorniamo brevemente alle 22.